l'altro ho provato ieri notte, sono rimasto fino a tardi a vedere se riuscivo a far partire il rotore, niente da fare qua, no, il rotore funziona, lui, il relè li senti che aggancia, che gira, ma attacchi l'antenna, no, e non si muove. Ecco. Registrato bene. Ehi Marco, c'è qualcosa che non va, tu sei esperto in queste cose, non lo so. Bisogna vedere un po' com'è la situazione. Io non ho grossi problemi, lo sai, da filare anche se grande, come l'hai detto tu, ma no, non credo che le crei problemi. La manta ci metto poco, 10 minuti, vado su e la abbasso, la metto all'altezza del muretto, rimane così, la circotarri le VLU, se regge, l'Antonio e Bio mi ha detto che già regge quella qui. Mi dispiace, ho montato la 920, qualche F, speriamo non mi crepi tutto, perché quella mi viene un bel male adesso a toglierla, vabbè, vediamo. Avanti, vecchio, buonasera. Ciao Rosio, ciao Claudio, mi hai sentito? Mi hai sentito anche a Marco Sforzo, mi sembra di aver riconosciuto, non ho fatto abbastanza radioascolto, per cui non so chi c'è di altro in rosa. Da questa parte il Croce, riprende Marco. Claudio, ciao, Anto, ma non ti posso dire, mi hai sentito perché eri tutto distorto, quasi non riuscivo a capire quello che dicevi, adesso non so se è un problema qua, io sono in macchina, sto viaggiando, se invece c'è proprio un problema sulla tua emissione, poi al passaggio Claudio ti darà maggiori info. No, beh, quello lì no, la 920, se il pare buono, a me l'altro anni fa, ti ricordo, mi aveva buttato giù quel bel lavoro che avevo fatto, cavolo, 4 VHF accoppiate, porca miseria, che era uno spasso quell'impianto, è l'antenna di 1200 e dalla volta non li ho mai più ripiazzati, le antenne avevo messo in una scatola, quella rotta, perché se n'era rotta una, l'altra l'ho riparata, ho comprato i pezzi, ma non ho mai ripiazzato nulla. Boh, speriamo bene, senti un po' com'è la situazione lì per Antonio. Sì, ok, ciao Antonio, buonasera, mi hai ascoltato. No, io lo ascolto bene Antonio, direttamente tu con quella radio di CNB, perché capita a volte anche a me che con l'NB inserito sento un po' distorci un po' la radio. Con questo baracchino qua arriva magnificamente bene. Avanti Antonio. Ma Rossi, l'ho passato leggermente, dovrebbe andare un attimino meglio, dai. Ciao, ma perché dove ti trovi Marco? Sono nelle curve dopo come si chiama qua, la zona dei cacchi, lì, direzione di Sorso Senuri. Non mi viene adesso dove c'è il vecchio mulino, boh, vabbè, già mai capito, sto passando adesso, Regione Autonoma Sardegna, in direzione di Sennori, no, la visione sarà ok, no, ma forse c'è stata una forte sovramodulazione che ti ha distorto la visione, perché qua c'è già una differenza di segnali notevole, cioè propagazione, arrivano forti segnali. Va bene, a te l'antenna tu. No, evidentemente avevo anch'io il Mike Green un attimino fuori, troppo, ho lavorato troppo un attimino. Sentimi un attimino, Claudio, mi ha contattato quello di Cagliari, dice che ha un 603, TV603, e lo vuole dare a 90 euro. Chiunque volesse mi può contattare e lo metto in diretto contatto con lui. Io non ho problemi a comprare queste cose, lo stesso sono appassionatissimo, ho rivelato a poco questo baracchino e ci sto mettendo di tutto, tutti i microfoni immaginabili, adesso sto usando l'M300 quasi chiuso, ho provato il TMP3, il TMP2, ma non c'è Cristo a dire qualcuno, la tua modulazione fa schifo, questo Galaxy Uranus che ho fatto uno stock della tutta la stazione radio di Pietro Braccio di Ferro che è morto nel 97, questo baracchino era dentro la scatola del 1997, l'ho acceso ed è perfettamente funzionante, è una bestia perché c'è 25 watt, va bene, ma è un semidigitale allucinante, va da 24 c'era una qualche resistenza bruciata, forse gli hanno dato troppo ingresso. Se, io dico se, perché io comprare queste cose mi piace per averle e per usarle, però dico se è fattibile, perché qualità prezzo 90 euro mi sembra una cosa un po' così. Se è bello da poter mettere assieme agli altri, ben venga, ma se non è tanto, no, tu sei qualcosa, è bello com'è. Guarda, da questo punto di vista è una persona assolutamente affidabile, non ha mai creato problemi, è la stessa persona che mi ha dato quella perfezione e sei cupole. Dopodiché sta anche vendendo un Alan 8001 che io non conosco ed è perfetto, il tasto l'ha modificato con 300 canali e si è rotto. Anche quella è una bellissima radio, l'8001 ce l'ha Luigi Vulcano, mi pare che ce l'abbia anche Pierpaolo, adesso non mi ricordo, mi pare, non vorrei sbagliare, è una radio che funziona molto bene, eccellente, va benissimo, ma come baracchini quanto, sinceramente parlando, mi deve via Gio Maria a trovarmi e portare ancora al Sommercamp. Ho comprato anche questo, ne ho 6 già dei baracchini belli, sostanziosi, nel senso che sono abbastanza grandi, baracchini proprio veicolari, di cui 4 base, quindi fra un po' non ci sto più. Quindi come baracchino non mi interessa. Gli amplificatori mi vanno sempre bene perché li collego, ce n'è uno quasi ad ogni radio, compreso questo che sto riparando, e quindi non ho problemi di stare cambia e ti cambia. Accendo per dire questa radio c'è il gemello del tuo, accendo l'altra, accendo un'altra, c'è, capito? Quindi quello mi può interessare, l'importante è che o ci manda una foto o facciamo un salto noi a prenderlo, ma non fa niente, però l'importante è che mi garantisca che sia funzionante e non dico che non deve avere i grafi, per carità di Dio, non me ne frega niente, i grafi si possono sempre rimediare, però che sia funzionante e che abbia almeno il frontalino davanti, insomma che sia presentabile. Guarda, dovrei scendere io domani a Cagliari, perché devo fare una piccola visita alla cervicale. Se vuoi ti do uno sguardo e poi vedo, chiaramente sono in condizioni più che perfette e mi dimostra che sta erogando quello che deve erogare, che cos'è? 250 se non sbaglio. Beh, il 1603 è uscito prima del 507, mi pare sia uscito prima o dopo, se non me lo ricordo, comunque è un ottimo amplificatore della ZG, quindi se è tanto efficiente, c'è il tanto per poterlo prendere, tu mi dai l'ok, io non ho problemi, mi dai le coordinate, le faccio il bonifico e me lo scendi direttamente tu, non ci sono problemi per quello. Aspetta che ho il listino preso e vedo cosa costa nuovo. Guarda cosa costa nuovo. Marco, sei arrivato a destinazione, mi ascolti ancora un 4 watt? Buon luglio, non c'è problema. Sì, sono ormai in prossimità del campo. Tutto K. C'è il vento, qua si prende proprio fronte marcia. Va bene, dai, vi lascio alle vostre chiacchiere, magari ci sentiamo dopo quando sono sulla via di rientro. Ma prima di chiudere, mi senti bene anche a me? Ehi, bene, direi ultra che bene, se non è abbondante, la radio è Super 5, io mi sto usando sto Galaxy Uranus con l'M300, un pochino ma leggermente di eco, non so se si sente. Va benissimo, lascialo così perché è giusta, lascialo così che va in maniera eccezionale. Ok, sono arrivato, va bene, allora ci sentiamo dopo, quando riparto rimetto in funzione la barra. Ecco, ciao Antonio, Marco Scorpio, curati. Marco, stai arrivando, si conferma una bomba, con QRT ci sentiamo le prossime razze, riprendi Claudio. Ambalacci cicco. Claudio. Scusa che mi ero distratto un secondo. Ciao Marco, alle prossime. scimmie ci sentiamo, dai, stiamo bene. Avanti, ma lo faccio sì, cocco, tre scimmie e su camò. Buongiorno, buongiorno. A me ne vento. Coccoli qua, la gala. Antonio, ciao, avanti, ciao, buoni. Oh, sono ci sia, allora. Ma chi lo senti, Luca? Ehi, alleluia! Attenzione, Marco, ascolti Luca qua! No, non trovo, deve essere fuori produzione, qua. No, sento qua. Quanto è segnato Luca? Da questo 1, 2, 3 a questo 1, 2, 3. Vai, tu, scusa, ripeti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, 9, 10, 9, 25, quasi. Ah, va bene, già, va bene. Sono sempre solo riportando tutto, magari vanno a tutto, e poi me l'ho girata a Sennori. Ti prendo in pieno. Prendi in pieno, Giulia. Ah, in pieno proprio, 9, 10, 6 qua con la direttiva. L'ho girata a Sennori. Senti, a Claudio vuole mettere il centro, comunque vanno anche io, se c'è bene. Lo so che sto bene. Guarda, tanto se non c'è più, passi qua sotto e te la guardi. Cosa vuoi finire? Oh, basta tu, Oh, passi, Antonio, devi forzare, devi cambiare tutto. Oh, c'è il radio, tu. Sei molto basso il radio. Il microfono che mi piace molto. C'è un break, avanti break. Avanti break. Con il microfono parlo. Non mi trovo io. Ah, ma vabbè, comunque c'è bene anche con l'M300 o lui. Va molto bene col baracchino. Sinceramente parlando è ottimo, ottimo, ottimo. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Ben sentito, so. Ma più. Guarda, una radio spettacolare, veramente bella. Poi, oltretutto è nuovo anche. Poi è legato, andava bene. Ecco, tu cari. Guarda un attimino adesso, registrato il prezzo. Devo rimettere tutto a posto, devo rimettere l'altra scena. e ti chiedono una mano, dopodiché queste palanchine gli devo abbinare un altro microfono che non sia questo, perché non so se hai visto quello della macchina come sta uscendo. Questo evidentemente il palanchino è buono, però non va bene il microfono, la copiata col microfono, capito? È molto strano comunque, non c'è. Molto strano perché quello della macchina è eccezionale, va alla grande, non ci sono problemi. Mentre quello lì invece è tutto incasinato. No, ma perché evidentemente questo qua ha delle stazionarie su quella Ringo e va cambiata, va messo alla fusa, alla Sirio, adesso porto qua la Sirio, con la 5 ottavi vedrai come si chia forte, capito? Sicuramente bisogna fare dei lavori, qualcosa. Non è strano per molto molto strano. Vabbè, comunque, già lo metti tutto a posto, non c'è problema, adesso si tratta di far passare questa bufera e poi già va tutto bene. Ascolta, non l'ho trovato però il questo 603, non è fuori produzione evidentemente. È dell'era del V131, di quell'era lì, capito? Il V131, beh, quello, non quello che c'hai tu, quello che c'ho io, poi quello che c'ho io ancora prima di quello che c'hai tu, capito? Quindi sicuramente il 603 è dell'era del V131 che c'ho io. E poi chiaramente sono andati fuori produzione, hanno fatto un modello come quello che c'hai tu del 131, poi 507, capito? Hanno fatto un sacco di cose. Ma è valvolare, perché se non è valvolare non è voglio, PV significa proprio però V sta per valvole. Lui la fa per 250 con valvole seminuove. Doveva avere tre valvole, due valvole accoppiate, se non mi ricordo. Lo conosco comunque come amplificatore, l'ho anche visto da un vecchio CB qualche anno fa. 220, quindi sì, va bene, c'ha 5-10 watt in ingresso. Va bene, Anto, l'importante te l'ho detto, che sia presentabile, perché se non è presentabile è inutile, capito? Prendere mondetta non fa, perché guarda, le radio che ho io, le ho viste, anche se sono vecchie, sono presentabili, adesso ho preso, Sandro mi ha portato su un base marino, praticamente, anche se è vecchio, l'ho messo un po' a posto, sembra presentabile, lo metti lì da una parte, anche se c'è frequenze un po' particolari, non serve a nulla, però... Sono sempre radio da collezione, però presentabili, capito? No, ma questo qua è uno di quelli che si tratta bene. Aspetta un attimino, deve essere il suo. Sto stando questa molla. Questo paracchino si abbassa anche la luce quando... Quando saliva, ora. E allora è sotto alimentato. Dici, eppure c'è un 5 ampere, come fa ad essere sotto alimentato? C'è un 5 ampere, lo stai pilotando con 5 ampere. Esatto. Non sono pochi 5 ampere. Sono pochi. Questa mattina lo attacco, ma qui no, non ce l'ho, non ce l'ho. Attaccato, c'è solo questo alimentatore col baracchino in basta. Tappa di rocchia. Ma perché gli manca la messa a terra, cioè nel senso non ha la massa sulla spina, sulla presa del 220. Non vuoi anche che sia quello, non vuoi anche che sia quello. Qualcosa c'è. Oh, io ti ascolto bene, per carità, non sono anche abituato a mai sentirti così, non ho problemi. La modulazione è comprensibile, il segnale 920 anche di più, quindi per me va bene. Ti ascolto bene sia con l'HF che col baracchini, non ho problemi. Non si è sentito nessun altro? cattivo, ero con Luca, poi è entrato Marco, c'era Fabrizio mascherato, poi è entrato Antonello, niente, non ho sentito altri, quindi volevo anche uscire da sera per la resistenza. Sino a giugana, se no non me ne frega niente, lo sto facendo a tempo perso, lo sto sistemando. Stasera posso cambiarmi addirittura le lucettine degli strumenti che sono fulminate, ce l'ho già. Non mi faccio quella stasera, resistenza ultima, non mi voglio riuscire, sono stanco morto. Sono tutta la mattina mi dal freddo lì sotto le montagne di Chiaravolti, un'acqua, ha fatto un'acquazzone allucinante. Io devo, lo stesso volevo sostituire a mettere le cuffiette azzurre a questa radio qua, quelle blu. E lo so, tu non sai il danno dal punto di vista economico, non mi crea adesso sabato, insomma, questo tifone che sembra che sia confermato, capito? Sì, è confermato anche perché il vento c'è, perlomeno nella bassa Androna si sente che il vento sta iniziando ad arrivare, le paleoliche che sono tutte girate a maestrale, quindi sicuramente qualcosa è in arrivo. Però è bello santo, ti penso io quando ci sono queste giornate così. Ti penso perché uno che fa un investimento va a fare guadagnare denaro e poi si trova un giornate così è brutto, non va bene. Beh, assolutamente, vabbè, ci vediamo un attimo, magari c'è la fortuna che scarichi tutto venerdì, sabato ne rimane poco, Andiamo a vedere. Mi scusi un attimino che vado. Stavo dicendo, dove la prendo? La DBC le cuffiette per queste lampadine? Sì, ce le hanno tutti i colori. Sì. Ma a non pensare che duri chissà quanto, queste sono una tromba d'aria, una perturbazione del genere può durare mezz'ora come può durare un'ora, non è che... Hai ragione, però vai a fidati, capito? Va bene. Scusami un attimo, vado a prendere una cosa e rientro subito. Vieni, fai.